Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ma che bello il mese di febbraio. Ma bonjour. Come mi piace, il mio mese, amore. Ti piace, è il tuo mese. Sappiate tutti che è il compleanno di Rosita tra 51, pochi. Dico anche l'età, non ho vergogna a dirla. 51, i capelli bianchi, mi sono già... E vai! Grazie, un inchino, grazie. Amore, mi raccomando, due regali, San Valentino il 14 e il 17, anzi tre. Eh sì, ravvicinati, no? Anzi tre, anzi, non mi chiedi perché tre? Perché tre? Vabbè, ciao. Perché c'è anche un altro compleanno importante, il 17. Ma certo, la piccola Alice. Comunque, parliamo di cose che possano interessare a tutti, perché di questa roba qua non gliele fotte una mazza nessuno. Questo facciamo, va bene. Allora, parliamo di regole, no? Sì. Parliamo di regole, che poi è interessante sta roba delle regole. Domenica prossima parleremo anche di San Valentino, del Family Day, del sì. matrimonio in modo approfondito, però insomma di regole si parla anche oggi. Si dice che per esempio il Family Day è a favore di una regola, diciamo così, familiare, no? Che non deve essere trasgredita, mentre ci sono i nostri amici omosessuali che dicono: uè, Italia, svegliati, no? E sono d'accordo con loro. È interessante questa cosa qua. La riaffronteremo approfonditamente. Il giorno di San Valentino è il giorno degli innamorati e dell'amore. Allora, noi in queste settimane stavamo parlando delle 11 cose che forse fai, ma che ai cani non piacciono. Esatto, preso da un articolo di Focus, e ne abbiamo viste punto per punto, no? Qualcuna già. Sì, allora abbiamo già parlato del primo punto, che era usare le parole più che il linguaggio del corpo. Il secondo punto era abbracciarlo forte. Cioè, che meglio non farlo perché potrebbe non piacergli. Esatto. Il terzo punto era fargli pat pat sulla testa. Odioso, infatti, anche se lo fanno a noi pat pat è odioso. Il quarto punto era guardarlo fisso negli occhi. Sì. Che poi noi facciamo sempre il parallelo fra noi persone. Esatto, però ti ricordi cosa abbiamo detto qui? Va bene. Cioè, il fatto di guardare un cane negli occhi amplifica l'intensità di questo gesto. Quindi se si è in un momento bello, come due innamorati, va benissimo. Però attenzione, perché se c'è tensione, questo guardarsi negli occhi amplifica. Diventa una sfida. Può diventare, sì, pericoloso addirittura per qualche cane. Vedi niente? Assolutamente. Allora, il quinto punto, allora, delle cose che danno fastidio ai cani è vivere senza regole. Perché i cani, come noi esseri umani, hanno bisogno ovviamente di regole. Questo però non significa che vanno addestrati a diventare dei coinquilini perfetti. Soprattutto addestrare è una parola che a noi non piace. No? È meglio educare, tu mi insegni. Sì, no, non è che non ci piace la parola addestramento. Diciamo che addestramento è qualcosa che va fatto dopo. Addestramento è rendere abile. Però nessuno si sogna di mandare un bambino, o meglio, qualcuno lo fa pure, ma sbagliando, mandare un bambino sotto le armi, no? Cioè, prima ci vuole l'educazione della persona. Come sappiamo, i cani sono delle persone, perché provano sentimenti, hanno una ricca vita emozionale, hanno una personalità anche loro. Ebbene, prima li devi educare, devi tirar fuori le loro caratteristiche, il loro carattere, le loro vocazioni, poi vanno addestrati. Quindi, prima non bisogna nemmeno lasciarli in balia di se stessi senza limiti né divieti. Questo vale anche per i bambini. Quindi, un ambiente di vita ben regolamentato è per il cane più prevedibile, meno confuso e meno stressante. Tuttavia, il cane può capire una regola, ma non l'eccezione alla regola. Bravissima. Non capirà che può saltare sul divano quando è appena stato lavato, ma non se è ricoperto di fango. Poverino, lui non sa, se lo fai salire sul divano, non sa che lo può fare quando è pulito e non quando è sporco. Né che può saltarti addosso quando sei in tuta e non al mattino prima di uscire di casa pronti per l'ufficio. Quindi grazie Focus per questo consiglio. Allora, quindi la regola è importante perché non bisogna confondere la gentilezza con la mancanza di regole. Certo. Perché una volta dice: vabbè, voglio essere gentile, voglio essere aperto nei confronti di questa creatura, che sia un bambino, un cane, ma anche un coinquilino, e allora può fare tutto quello che vuole. Non è così. E c'è un modo calmo, coerente, tranquillo di dire: questa è una regola, questo è quello che bisogna imparare a fare. Quindi la regola è importante perché dà sicurezza, fa in modo che non ci siano conflitti, perché li evita. Certo. Se due persone o più persone o con il cane ti sei assicurato che c'è una regola, stai anche tranquillo che ogni volta che ti trovi in quella situazione dove la regola va applicata non c'è confusione tutte le volte, non che non ci si capisce, via dicendo. Però no? Uno ti potrebbe dire: scusami, però con un esempio come questo, come faccio io se il mio cane può salire sempre sul divano e sempre sul letto? Come faccio io a dividere le situazioni, tornato, sai come si chiama, Pilar? Sì. Il cane di Emanuele, sì, e di Ludovica. Il mio fratello, certo. Sì, che tutte le volte andiamo a fare la passeggiata, si butta nel fiume, torna a casa che è un disastro. Ma tutte le volte di inverno. Ma loro giustamente non vogliono che ci sia la regola: non devi andare nel fiume. Questa no, è una cosa che avresti fatto tu. Ecco. Però, eh sì, perché i cani hanno bisogno di sporcarsi, stare nel fango, andare nel fiume. Ma i miei non hanno voglia di sporcarsi, camminano sulle punte delle unghie. Stiamo parlando di Pilar. Pilar ne ha bisogno. Quindi, appunto, chi ci ascolta, vi prego, state attenti, perché i cani hanno bisogno di queste cose. È non vero, è che se è il cane va nel fango sbaglia. No, sbaglia vero, secondo il nostro punto di vista, ma lui ne ha bisogno. Piuttosto lo spazzoli una volta di più, però ha bisogno di divertirsi, correre e buttarsi nel fiume come fa, okay, Pilar. Ok, come fa a capire che poi in casa quando allora, bravo, ci sono le due C: calma e coerenza. Che calma, anche la terza C. Calma, coerenza e calma. E calma di nuovo. No, mettiamo che tu voglia insegnare al cane a non salire sul letto. Come sappiamo non è un errore dal punto di certo vista educativo, però uno potrebbe non avere voglia di questa cosa. Per insegnare al cane a non salire su un letto o su un divano o a non buttarsi nel fiume e a farsi la nuotata se ne ha la necessità perché magari fa freddo durante l'inverno, non lo so, ha bisogno di tutte le volte che il cane sta per fare quella cosa, di dirgli stai giù, di dirgli ah, beccato, questa cosa non si fa. Se il cane è riuscito già a salire sul divano, per esempio, lo si fa scendere con gentilezza, calma, gentilezza, ma coerenza, perché se tu lo fai salire una volta sì una volta no, come ci dice questo articolo, il cane non riuscirà a capire che tu gliel'hai concesso, certo, no? Semplicemente creerai caos, certo, e confusione. Giustamente l'articolo dice che il cane non conosce l'eccezione e la regola. Esattamente, quindi devi essere costante, devi essere coerente. Se tu una volta lo lasci stare, il cane non capirà perché. Se vuoi concedergliela questa cosa piuttosto sul divano, ci metti una copertina e quello, certo, può essere il segnale di dire ok, quando c'è la copertina puoi salire. Oppure se appena, non c'è, si, no, appena si torna dalle passeggiate si pulisce con un panno umido, si pulisce il cane. Esattamente, quindi come noi ci puliamo le scarpe, noi cambiamo le scarpe. Bravissima, mettiamo le pantofole. Bravissima. Ora è importante l'altra C, che è la calma, perché questo non significa che se il cane è salito sul divano tu devi punirlo e arrabbiarti, non ce n'è motivo, l'importante è che tu sia coerente, quindi gli dici prendi e scendi, ok? È perfetto, e con la stessa coerenza adesso ci ascoltiamo il traffico. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano speciale Sanremo, alle 15.30, rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24. La passione si sente anche al festival. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Capito le regole, sì, Rosita? Sì. Noi, sempre dalla prospettiva del cane, degli animali, della natura, cerchiamo di vedere le cose giuste. Comunque, per chi volesse riascoltare la puntata, mi raccomando, andate sul sito di radio24.it, andate sui podcast o sui programmi, chiedimi se sono felice, e quindi vi trovate tutte le puntate che abbiamo fatto fino ad oggi. Oppure, se ci volete scrivere, perché noi rispondiamo a tutti e spesso vi citiamo, vi telefoniamo anche per darvi delle risposte in diretta, e la nostra mail è chiedimi se sono felice @radio24.it. No, perché ci dicevamo poco fa io e Rosita durante le informazioni sul traffico che questa cosa delle regole che abbiamo appena affrontato poco fa si applica tranquillamente a bambini, a coinquilini, insomma, quando tu vuoi devi metterti d'accordo su una regola, sì, sì, per certo, evitare caos, confusione e addirittura conflitto. La mia libertà finisce dove inizia la tua, cioè c'è sempre veramente un rispetto, ci deve essere. Ma ci guarda essere come stiamo scivolando nel tema del diritto. Hai cioè visto? La mia libertà finisce dove finisce la tua, che cosa caspita, è il diritto fare per l'uno e per l'altro. Perché è importante questo? Perché abbiamo con noi Diana Cerini, che è professore di diritto comparato all'Università di Bicocca, che ci aiuta ancora oggi, anche oggi, a fare luce sulle questioni dei diritti degli animali. Buongiorno Diana. Ciao Diana. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Allora, c'è una cosa curiosa di cui... Sì, molto curiosa. Molto curiosa. Che a me piace molto. Sapete che ogni tanto noi parliamo del Medioevo come di un'epoca oscura. No, dove ma soprattutto dei ritardati, ritardati nel senso che un po' grezzi, un po' aggressivi, un po' stupidocchi. Eppure sembra che per qualche verso, anche se poi adesso andremo a sviscerare un po' bene questa cosa qui, erano un po' più avanti di noi, perché Diana ci ha raccontato che una volta l'imputato poteva essere un animale, cioè poteva essere interrogato e ritenuto responsabile, giusto? Sì, esatto. Ci sono tanti fotografie, tanti anche libri che ci raccontano come il Medioevo, che è un po' questo sconosciuto, un periodo ancora tutto da scoprire per certi versi. Fascinantissimo. Esatto, vedesse proprio questi processi agli animali. E questo perché avveniva? Perché ovviamente l'animale viveva nella comunità, nelle famiglie, nelle città, nei paesi, peraltro anche libero, pensiamo ai maiali che vagavano per i paesi. Certo. Ecco, e quindi cosa succedeva? Che in caso di danni, molto spesso la cultura popolare, che vedeva quasi una continuità tra l'uomo e l'animale, riteneva responsabili direttamente gli animali anche, quindi quasi dotati di un intelletto. Invece di andare a prendere il proprietario del maiale che magari aveva, che non so, distrutto un orto, prendevano il maiale e gli dicevano: "Oi, come ti sei permesso di mangiare le cose di proprietà?" La domanda però... Ho capito bene? Ah, scusa. Tutte e due. Sì, in realtà addirittura noi abbiamo dei processi condotti insieme contro il proprietario e anche l'animale. E anche l'animale. Ma l'animale che avvocato aveva, difensore? Purtroppo ne avevano pochi. Perché vedi, scusami se ti interrompo solo un secondo, perché da una parte voglio dire, è bello il fatto che danno, come si dice, imputano all'animale un'intelligenza, una sensibilità. Da un'altra, però, secondo me è un processo perso in partenza per l'animale, perché come fa a difendersi e quindi fa una brutta fine. Poi viene giustificato il fatto che il processo finisca con una brutta fine per l'animale? Ma guarda, le fini che facevano questi animali erano veramente brutte, terribili. Noi abbiamo l'immagine che è stata poi riprodotta anche in alcune raffigurazioni di questa truie de falaise, cioè di questo maialino che purtroppo in una cittadina francese, vagando, aveva anche ucciso un bimbo, insomma una cosa veramente tragica. Però era stato vestito e portato sul patibolo dopo essere stato trattenuto alcuni giorni, e quindi, come dicevi tu, da un lato le persone percepivano l'animale come dotato di intelletto senziente, dall'altro è evidente che l'animale viveva in un contesto che non era il suo, quindi era assolutamente impossibilitato a seguire le regole civili e della comunità, quindi senza dubbio era sottoposto anche a torture, a situazioni molto poco carine. Mamma mia. Grande ambiguità. Però è vero che anche oggi... Come del resto erano sottoposte a torture anche le persone, esatto. No, la cosa interessante, la riflessione che emerge subito qui, per aiutare anche chi ci sta ascoltando nel loro rapporto con gli animali domestici a casa, eccetera, e questo è il tipico caso di stupida, tra virgolette, antropomorfizzazione. Cioè, attribuiscono all'animale le proprie vocazioni, i propri sentimenti, i propri ragionamenti, dando per scontato che l'altro veda le cose esattamente dal tuo punto di vista, che è quello che invece noi cerchiamo di scardinare con questa trasmissione. Sì. Cioè il mondo alla prospettiva del cane significa abituarsi a capire che l'altro ha una posizione percettiva diversa dalla certo. tua. Ogni specie esatto. ce l'ha. Quindi da un lato il passo indietro che noi abbiamo fatto alla Medioevo a oggi è stato togliere all'animale il sentimento e la ragione, no? Dall'altro, secondo me, all'epoca gli davano il sentimento e la ragione, però quasi in modo strumentale, esatto. O comunque sbagliavano ritenendo che l'animale vedesse le cose esattamente come noi, quando invece aveva una cognizione del mondo e dei bisogni rispetto al mondo che sono per noi diversi. Quindi il nostro salto è proprio così. Il nostro salto evolutivo, no? Deve essere proprio quello di capire che il mondo, anche da un altro essere, dal punto di vista di un altro essere umano, è diverso, figurati di un animale, lì che si cresce. Ma oggi invece come stanno, come sono invece i diritti degli animali, o soprattutto di chi decide di avere un animale, di avere un gatto, un cane, insomma? Oggi noi abbiamo chiaramente una centralizzazione sul proprietario o sul detentore, abbiamo un codice civile che ci dà un riferimento molto chiaro, un articolo, l'articolo 2052, che peraltro è anche molto rigoroso con chi è proprietario o detentore di un animale, perché costui risponde sostanzialmente sempre, salvo che non provi il caso fortuito. Caso fortuito vuol dire situazioni davvero molto molto particolari, quindi è totalmente esterne alla sfera di controllo del proprietario, e questo vuol dire che oggi chi ha un animale, pur nel rapporto affettivo e di compagnia con l'animale, deve sapere che ha delle responsabilità. Mm-hmm. Pensiamo anche al piccolo animale, al piccolo cane che attraversa la strada e fa inciampare, fa cadere un ciclista, sì, piuttosto che al cane che, o a un altro tipo di animale che magari anche all'interno di un'abitazione provoca dei danni a chi entra nell'abitazione, quindi responsabilità verso i terzi. Senti Diana, ma c'è una legge che impedisce di tenere in casa delle specie di animali? Ti faccio un esempio, il pitone, il furetto, anche semplicemente il furetto, l'iguana, cioè c'è gente che c'ha a casa questi animali qui. Ma allora, sicuramente per determinate specie ci sono dei veri e propri divieti, e c'è un elenco anche piuttosto lungo che mira a proteggere la specie e anche la salute e le condizioni delle abitazioni, specialmente anche nei condomini. Poi ci dovrebbe essere anche il buon senso collegato appunto alle abitudini etologiche, alle condizioni etologiche di questi animali, che non sono adatti a vivere in determinate condizioni. Peraltro noi ricordo abbiamo già parlato anche dei condomini, ecco, sì, ci possono essere anche specifiche norme del condominio che, sebbene abbiano consentito una maggiore possibilità di tenere animali, però anche lì i limiti sono quelli di non arrecare problemi o rischi agli altri. Per chi... esatto, quindi rispetto a queste specie chiaramente si possono fare dei discorsi differenziati, vale sempre la medesima regola: se poi provocano dei danni bisogna pagare. Ma io c'è una domanda che voglio farti, so che è così, magari tu me lo confermerai, ma voglio andare un pochino più a fondo sul motivo. Cioè, una persona investe un bambino e ha guai. Esatto. E la responsabilità, sì, del bambino, io non so quanto sia del genitore che l'ha lasciato libero, sì, eccetera. Se uno invece investe un cane, non soltanto non gli accade nulla, ma il proprietario del cane paga i danni alla macchina, al proprietario della macchina. Cioè, perché c'è questa differenza? Cioè, se fosse stato un bambino a tagliare la strada e ad essere investito, perché c'è una diversa... Ma allora, la regola, le regole in realtà sono sempre le stesse, quelle che fanno riferimento alla circolazione stradale, nel caso specifico che tu fai, dove è il conducente che deve fare tutto quanto è possibile per evitare il danno. È chiaro però che poi queste regole devono essere applicate, sì, chi le applica? Dei giudici. Nel momento in cui tu hai, come spesso accade, un bambino che attraversa la strada, è molto più... facile, diciamo, che si tenda a essere più rigorosi rispetto al conducente che non rispetto al bambino. Ma questo perché? Perché si vuole poi garantire anche eventualmente un risarcimento alla vittima, in questo caso al bambino. Sì. Però, ripeto, le regole non è che siano diverse, perché anche rispetto a un animale, chiaramente tu sei responsabile se lo lasci attraversare repentinamente la strada senza controllo, ma anche l'altro in teoria dovrebbe fare quanto è possibile per evitare il danno. Quindi, scusami, fammi capire, la legge è uguale? Cioè, fammi capire, la legge è uguale, perché la legge è quella che disciplina la responsabilità del conducente. E poi c'è comunque una situazione nella quale c'è un concorso di colpa, supponiamo, della vittima, che potrebbe essere nel caso che si faceva il bambino o il genitore che ha omesso il controllo. Non è che non ci siano decisioni in questo senso, però è chiaro che quando si va in concreto a soppesare, poi la posizione del bambino diventa diversa da quella del cane che attraversa di colpo la strada. Perché poi il conducente in realtà non ha avuto i riflessi pronti né in un caso né nell'altro, cioè lui non sa se un cane è un bambino, non riesce ad evitarla la cosa, quindi non è che dice il cane lo investo e il bambino no, o viceversa, insomma. Certo. Senti, c'è un'ultima cosa che a me impressiona sempre molto: vedere tutte quelle persone in bicicletta che trascinano il cane a correre col guinzaglio. Ma la legge cosa dice? Cioè, voglio dire, l'etica? Perché io lo trovo, a parte assurdo, una tortura per il cane, perché loro non vedono che il cane arranca, cioè loro non possono, non hanno questo, dovendo guidare la bicicletta, ma soprattutto io ho il terrore sempre che qualche macchina gli vada addosso, che col guinzaglio, insomma, che sia una cosa pericolosa da fare. Eh sì, anche qui le regole sono esattamente le stesse, c'è una responsabilità di chi conduce i veicoli, ma c'è anche la responsabilità del ciclista, che nel caso specifico non è solo un ciclista ma è anche il proprietario dell'animale. Quindi la legge dice che non andrebbe fatto, scusa Emiliana? La legge non entra così tanto nel dettaglio, perché in realtà ti dà delle regole che tu devi osservare, che sono regole di prudenza, però proprio per questo caso, che effettivamente è un po' il confine, ricordiamo la regola che dicevo prima, cioè il proprietario risponde fino al caso fortuito. Quindi cosa vuol dire? Che se per esempio c'è uno sbandamento dell'animale, fa cadere col guinzaglio lo stesso ciclista, beh, è chiaro che una situazione di quel tipo non è caso fortuito, a meno che non intervenga un evento del tutto eccezionale. Quindi il proprietario che fa questo deve stare molto attento, perché allora, essendo per strada può provocare danni importanti anche. Vogliamo capirne di più insieme a Diana Cennini anche in tema di assicurazione. Ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ed eccoci ancora in linea con Diana Cerini, che è professore di diritto comparato all'Università Bicocca. Dicevamo prima della responsabilità dei proprietari, del diritto animale, via dicendo. Certo. Diana, io voglio farti ancora una domanda, ma alla luce del fatto quindi che noi siamo responsabili di quello che combina il nostro animale domestico, è meglio ed è consigliabile per tutti quindi fare l'assicurazione? Eh sì. Certo, ormai in un mondo di rischi e di responsabilità è molto utile avere delle assicurazioni che coprano la responsabilità del proprietario. Ma perché non sono obbligatorie? No, non sono obbligatorie in realtà. E allora che cosa si può fare? Nella maggior parte dei casi c'è da tener conto che chi abbia un'abitazione e quindi ha ad esempio il cosiddetto contratto multirischi abitazione, che copre la responsabilità per l'immobile e tutta una serie di altri rischi, ecco, in questo tipo di contratti sono normalmente previsti anche i rischi per la proprietà degli animali. Bisogna stare attenti però a una cosa, che i contratti di assicurazione sono importanti e quindi anche complessi, e quindi bisogna fare attenzione a quello che si dichiara, perché normalmente questi contratti prevedono la copertura per un cane. Il cane è normalmente l'animale identificato. Se una persona ha più di un cane è tenuto a dichiarare e eventualmente in alcune situazioni a pagare anche un premio diverso. Un premio aggiuntivo. Un'assicurazione per ogni animale che sia in casa? Esatto, un premio aggiuntivo. Dipende un po' dalle compagnie, ma questo è un po' l'orientamento. Bene. È chiaro che sono contratti di assicurazione più generali. Nulla esclude che si possano stipulare anche polizze ad hoc relative agli animali. Ad esempio, anche in alcune contesti legati ad associazioni piuttosto che enti dove si praticano attività e sport con animali. Ecco, a volte ci sono convenzioni in grazie alle quali sono studiate polizze che prevedono da un lato la copertura della responsabilità civile del proprietario e magari anche altre prestazioni a garanzia di danni, per esempio spese relative a, alle spese veterinarie per l'animale, piuttosto che addirittura in alcuni casi se il proprietario è costretto ad allontanarsi, pensiamo a una malattia, a una degenza in ospedale, vengono coperte le spese per il mantenimento dell'animale presso un ricovero. Ah, vedi, interessante. Quindi c'è una certa specializzazione anche in Italia, da alcuni anni abbiamo ormai recepito un po' questa prassi di creare anche prodotti ad hoc costruiti attorno all'animale. L'alternativa altrimenti è quella che dicevo prima, cioè vedere se nel proprio contratto, che già si ha, molti di noi, quasi tutti insomma ce l'hanno per l'abitazione, è prevista anche la copertura per i danni. Bene, la responsabilità. Bene. Importante, perché se sei al parco, il cane ti scappa dal guinzaglio, incidentalmente va ad urtare un bambino che cade, batte la testa e gli fa male, sei rovinato se non hai l'assicurazione. C'è una bella responsabilità. Senti Diana, grazie mille, ma se qualcuno volesse avere la tua consulenza per, sentendo la radio, volesse proprio usufruire proprio del... Cioè, fai consulenza? Ma io faccio, sì, io sono avvocato, poi in realtà da questo punto di vista a me piace molto parlarne, però sicuramente se qualcuno vuole qualche chiarimento, qualche indicazione, anche magari qualche libro da leggere su queste tematiche, può scrivermi anche alla mia mail universitaria, che è diana.cerini chiocciola unimib.it, e sarò molto lieta di confrontarmi. Benissimo, benissimo, Diana, grazie. Cerini, grazie infinite, alla prossima. Ciao anche a te. Allora, a proposito di mail, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che ci possono scrivere a chiedimi se sono felice @radio24.it, come ha fatto una persona che adesso ti presento, perché leggendo le nostre mail ho conosciuto Rachele Malavasi, che si occupa di cavalli. In modo specifico lei è referente scientifico dell'OASI Equiluna. Vedi? E io sono felicissima di parlare di cavalli, ahimè. Quindi il mondo della prospettiva del cane, il mondo della prospettiva del gatto, qualche volta l'abbiamo fatto, oggi parliamo del cavallo. Sì. Buongiorno Rachele. Buongiorno, ciao Angelo, ciao Rosita. Benvenuta. Ciao Rachele. Allora, raccontaci, tu sei il responsabile scientifico di questa OASI Equiluna? Sì, ma io scusami, volevo solo dirti una cosa. Io sto avendo avuto un cavallo che ha vissuto 30 anni felicemente, libero, non era castrato, era un andaluso e purtroppo è mancato neanche un anno fa. Quando ho letto la tua mail sono rimasta molto colpita, perché tutti tendono, come diciamo noi, a vedere nel cane, a dargli i nostri bisogni, a viverlo come un essere umano, e spesso si fa col cavallo che uno pensa che sia più un cane, mentre il cavallo è ha vero, vero è cioè io sono cresciuta per esempio sentendomi dire, quando avevo i cavalli o andavo a cavallo, mai stare dietro a cavallo perché scalcia, e ora Rachele ci spiegherà perché i cavalli sono ombrosi, ci sarà un motivo, giusto? È vero, giusto. Sì, sono delle prede, ma anche loro in natura, vivendo in un branco, hanno bisogno di mediare le relazioni all'interno del branco, e se fossero sempre ombrosi, quindi imprevedibili, se si spaventassero subito, le relazioni all'interno del branco si romperebbero in continuazione e non potrebbero tra l'altro gestire le loro emozioni in maniera razionale, perché sarebbero spaventati da qualsiasi... Hai detto una parola chiave che vorrei che chiarissi per chi ci sta ascoltando. Che cosa vuol dire mediazione? Mediazione si intende la capacità di gestire le relazioni fra più individui senza essere necessariamente il protagonista della relazione. Quindi le proprie necessità non vengono messe al di sopra di quelle degli altri, ma bisogna osservare e interagire con gli altri, osservare gli altri in modo da poter abbassare i propri toni o alzarli quando c'è bisogno. Quindi mediare... Rachele Malavasi, una di noi. Infatti gliel'avevo detto, Angelo, dico guarda, io ho parlato con Rachele, ti piacerà tantissimo, perché effettivamente senti, ma in effetti il mondo dei cavalli e il mondo dei cani sono estremamente vicini, perché sì, comunque si tratta di specie sociali che interagiscono con noi, e però, come diceva prima Rosita, per tantissimo tempo i cavalli sono stati relegati ad un ruolo secondario, sì, spesso rinchiusi purtroppo nei box e comunque considerati come animali che avevano bisogno soltanto di caldo, di acqua, di mangiare e nient'altro. E invece... finalmente, perché io ne parlo con i miei, con qualche conoscente, amico che ha il cavallo lì nel box, e gli dico: ma scusa, ma il cavallo non vive in questo modo? Vabbè, ma adesso poi si è abituato, e questa è la risposta. Ma sai perché dicevo Rachele una di noi? Non tanto per il fatto che tu dicevi no, perché anche il cavallo vive in un gruppo sociale come il cane, vi dicendo, ma perché mi sorprende sentir dire questa cosa da un'appassionata di cavalli, perché molti appassionati di cavalli queste cose non le dicono e non le sanno. Non le sanno, non le dicono, cioè, perché non le sanno, perché non approfondiscono. Ci sono molti pregiudizi legati al mondo dei cavalli, mm-hmm, anche per esempio il fatto che ormai si è abituato a stare nel box, come se il cavallo non fosse un individuo da plastico che riesce ad adattarsi a nuove situazioni. I cavalli vivono in delle società che si chiamano società fission fusion, cioè mm-hmm, sono delle società in cui diversi piccoli branchi si uniscono fra loro, quindi bisogna imparare a riconoscere gli altri individui, stabilire di nuovo tutte le relazioni, e poi questi branchi di nuovo si separano e si riuniranno in un secondo momento. Un animale così, che deve gestire tutta questa quantità di relazioni e di eventi nella sua vita, non può non essere flessibile. Quindi quello che succede spesso qui all'Oasi, dove abbiamo i cavalli gestiti in branco, in un paddock naturale, è bellissimo. Dove si trova, scusami se ti interrompo, Rachele, dove si trova l'Oasi Equiluna? L'Oasi Equiluna si trova a Moncigoli, che è in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Mm-hmm. Ci dobbiamo andare. Per forza, sa da fa. Sarete benvenuti e potreste venire il giorno dell'Equifest, che è il 21 marzo, in cui noi faremo la controfiera. Perché mentre ci sono tutte queste fiere di cavalli dove vengono mostrati, non so, ci sono i cavalli arabi che fanno la loro esibizione, c'è la monta western, eccetera, noi al posto di portare i cavalli in fiera, non vogliamo stressarli ovviamente, e invitiamo invece i proprietari a portare i loro cavalli da noi gratuitamente per una giornata, mm-hmm, in modo che così i loro cavalli possano conoscere i cavalli dell'Oasi. Si fa una cosa che si chiama classe di socializzazione. Non c'è posso credere. È bellissimo, come per i cani. I cavalli sono... Io adoro le classi di socializzazione, perché i cavalli inarcano il collo, si avvicinano uno all'altro, inarcano il collo e si odorano le narici uno dell'altro. Amore. E possono, spesso emettono degli urletti che sono delle espressioni di emozione, possono anche rampare, ma lo fanno sempre in una maniera ritualizzata. Ecco, questa è una parola molto importante, la ritualizzazione. Rampare... Senti, Rachele, scusami, ma sì, il 21 marzo è un lunedì. Oddio, hai ragione. No, perché io me lo stavo già segnando in agenda. Hai ragione, perché il 21 marzo non è il giorno dell'Equifest, ma è il giorno di un convegno sulla relazione uomo-cavallo che si terrà a Milano all'Università Bicocca. Il giorno dell'Equifest ancora non lo abbiamo stabilito, ma ve lo farò sapere presto. Unibicocca, bene, chissà che non venga a sentire che cosa vi dite. Sì, però facci sapere. Ma detto questo, allora io a Rachele ho chiesto anche un sacco di altre cose sui cavalli. Allora, prima di tutto, loro patiscono molto il morso in bocca, vero? Sì, sì, considerate che spesso vediamo i cavalli che scuotono la testa in alto e in basso, perché proprio perché cercano di liberarsi quando hanno il morso in bocca, proprio perché cercano di liberarsi dal dolore del morso. Il problema del morso, tra l'altro, è che non serve, nel senso che ha un'utilità se si vuole far fare al cavallo un certo tipo particolare di ginnastica, ma io posso fare qualsiasi attività a cavallo senza necessariamente utilizzare il morso. Qui per esempio all'Oasi Equiluna, che è centro studi di equitazione etica, si monta in capezza, non c'è da aver paura. Per esempio molti vengono qui e dicono: ma come faccio a fermare il cavallo senza il morso? Il cavallo si ferma con il il corpo. Noi diciamo, per esempio, sentiti come un gelato sciolto sopra il cavallo, perché il tuo corpo trasmette il non fare e quindi il cavallo si ferma. Chiaramente devo avere una buona capacità di percezione del mio corpo, ma questo è anche un bellissimo aspetto su cui lavorare insieme al cavallo. Allora, ascolta Rachele, siccome io adoro questa lezione che stiamo facendo oggi con i cavalli, adesso ascoltiamo un attimo il traffico e poi continuiamo la chiacchierata con te. Va bene. A tra poco. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presento. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci di nuovo qua, stiamo parlando con Rachele Malavasi, stiamo parlando di cavalli, un altro animale a me stracaro, e dicevamo appunto che il morso non serve a nulla, non serve a fermare il cavallo, è purtroppo una cosa di tortura, come lo sono per esempio per i cani i collari a strangolo o i collari a strangolo con le punte. Quindi tu ci stavi spiegando, Rachele, appunto, che si può portare un cavallo, andare a fare passeggiate col cavallo solamente con la capezza, no? Sì, sì, io vi posso citare l'esempio di una persona che una persona che è venuta proprio qualche giorno fa qui all'Osi, che aveva sempre montato con il morso, e è venuto all'Osi, il suo cavallo è sceso dal trailer tutto sudato, agitatissimo, pieno di ansia, anche perché non viveva in branco, viveva in un box con accanto un altro cavallo, e questo cavallo è sceso giù nel nostro paddock naturale, vicino al branco. Gli abbiamo fatto conoscere altri cavalli e abbiamo subito visto come si è calmato, si è rilassato. Nell'arco di 2 giorni, quindi lui è arrivato la mattina, il pomeriggio del giorno dopo, siamo usciti con questo cavallo in capezza e abbiamo fatto un'escursione nel letto del fiume. E questo cavallo non aveva mai fatto un passo senza il morso. Figurati. Sono felicissimo di quello che sento. Scusa, il morso equivale anche, perché alcuni tolgono il morso ma gli mettono quell'altra tenaglia intorno al naso che fa forse ancora peggio, no? Noi stiamo parlando. Ci sono tanti tipi diversi di imboccatura, c'è cioè il morso, il filetto, poi si possono mettere tanti altri tipi di leve, che però essenzialmente quello che fanno è cercare di dare più forza nelle mani del cavaliere. Il punto è questo, che un cavaliere molto esperto può anche utilizzare un'imboccatura in momenti in cui serve al cavallo di fare esercizio per esempio, muscoli dorsali, perché con una leggerissima, un cavaliere esperto con una leggerissima pressione delle mani riesce a chiedere al cavallo di fare alcuni particolari movimenti. Mm-hmm. Ma è un caso su 100. Quando arriva un principiante in un maneggio e gli viene dato in mano un cavallo, e questo principiante non ha una vera capacità di percepire come utilizza le mani, quanta forza mette, e quello che succede nel cavallo è che il cavallo non riesce mai a liberarsi da questo dolore costante in bocca, perché il principiante per esempio tirerà troppo le redini anche andando al galoppo, quindi per esempio è incoerente, gli dà un segnale vai e intanto gli dice fermati. Bene. E quello che succede nei cavalli è che si sviluppa una cosa orribile che si chiama consapevolezza di impotenza. Praticamente il cavallo capisce che non può fare niente per liberarsi da quel dolore e quindi si spegne. È la sindrome da impotenza appresa che aveva studiato Seligman nei cani e poi l'ha traslato neanche nelle persone. Infatti, molto, come dicevamo prima, di quello che si sa sui cani potrebbe essere tranquillamente applicato ai cavalli. Senti, il cavallo si affeziona all'uomo, al suo compagno di vita? Sì, Sì, si affeziona molto, lo riconosce a distanza, lo riconosce sia per l'odore, anche e soprattutto pare che lo riconosca per il modo di muoversi e si crea delle aspettative. Quindi, io so che lo riconosce quando lo monti, no? Sapevo, il mio cavallo sapeva perfettamente che quando salivo su io poteva fare quel cacchio che voleva. Salivo un altro, perché io non lo contraddivo mai, dicevo non devo contraddirlo, c'ho paura di contraddirlo. Quindi lui era... E perché avevi paura? Beh, il mio era un cavallo intero, era un andaluso. In realtà poi gli ho fatto fare una bella vita, nel senso che volevo che fosse felice, cioè, e libero. La tua convinzione era, siccome è uno stallone, se io lo contraddico si arrabbia, esatto, giusto? No, se lo contraddico pure che si arrabbi e poi cado, perché io sono una di quelle che per certi versi, ahimè, non sono mai caduta da cavallo, invece dicono che cadere le prime volte ti aiuta a prendere più... Io ti farei la domanda da 100 milioni di dollari. Sì. Vediamo. Come si riconosce una buona relazione con un cavallo e come la si costruisce? In sintesi, ovviamente, no? Perché poi sì. Sì, per complicarti le cose. Bene, grazie. Beh, la buona relazione si riconosce quando tu non hai bisogno di prendere una capeccia per far venire il tuo cavallo da te. Lo chiami e il cavallo viene da te perché sa che da te si aspetterà solo cose buone. E questo vuol dire che tu sei coerente nelle tue richieste. Non significa che lo riempi di biscottini o di carezze e basta, perché quello che vuole anche un cavallo è che all'interno del suo branco, e tu fai parte del branco pur se lui ti riconosce come essere umano e non come cavallo, perché non è stupido, lo capisce che non sei un cavallo, però lui vuole che all'interno del suo branco ci siano degli elementi che portano valore. E quindi, se tu sei una persona che lo sa portare all'acqua, che quando c'è una situazione di pericolo sa come liberarlo da quella situazione di pericolo, se sei quella persona che quando è finito un esercizio fatto bene decide di prendere e scendere senza chiedere altro, quindi che non lo stressa, tu diventi un individuo accreditato, quindi una persona di cui fidarsi, una persona, appunto, come dicevo prima, che porterà solo cose buone. Quello, ecco, è ricordiamo questo modo. Bene, questo è il modo in cui si costruisce fiducia. Io voglio ricordare che queste stesse cose, questi stessi consigli che Rachele ci ha dato per il cavallo funzionano con i cani e funzionano anche con gli esseri umani. Sì. Senti, Rachele, un'altra cosa che tu... Aspetta, mi... non è che doveva finire ancora, volevi finire il discorso? Una cosa che è molto molto importante per la relazione è il fatto di tenere conto delle esigenze del cavallo, che appunto non sono solo quelle di mangiare, stare al coperto e dormire. Il cavallo deve vivere in branco, è un animale di branco, quindi non bisogna tenere il cavallo da solo in box, e ci sono mille modi per gestire i cavalli in branco. Persino gli stalloni possono essere gestiti in branco, facendo dei branchi di sole stalloni. E quando il cavallo vive, ecco, per esempio parlavamo prima dei cavalli ombrosi, il cavallo si spaventa subito se non gli viene data la possibilità di fare esperienza. Se c'è, cioè, il classico esempio del sacchetto di carta, del sacchetto di plastica, come i cani. Che vola, sì, decisamente sì, come noi anche. Come noi, esatto. Il sacchetto di plastica che vola e il cavallo fa uno scarto, ma il cavallo scarta quando vede il sacchetto di plastica perché nessuno gli ha mai fatto odorare un sacchetto di plastica. Eh certo, perché se te me lo tieni nel box che è privo di stimolazioni, esperienze eccetera per tutta la vita, è ovvio che appena vede qualcosa che è anomalo, che non rientra in quello che gli accade di solito, ovviamente si spaventerà. Ma poi Rachele mi spiegava, certo, che ovviamente la conformazione del muso del cavallo, avendo gli occhi laterali, ha un modo di vedere particolare, giusto? Una visione periferica molto ampia, molto sensibile al movimento, perché è una preda, quindi... Sì, perché vede praticamente quasi 320 gradi, diciamo tra i 270 e 320 gradi, però ha un vuoto di vista nella parte posteriore e un pochino anche nella parte davanti agli occhi. Anteriore. Che succede? Che molte persone insomma ritengono che sia pericoloso passare dietro al cavallo perché il cavallo potrebbe calciare. Ora, il cavallo ci vede arrivare da sinistra, ci vede poi scomparire e ritornare a destra. Quindi se io mi muovo troppo velocemente, oppure se io arrivo direttamente dietro i posteriori del cavallo, il cavallo chiaramente si spaventa e, certo. E potrebbe, insomma, diciamo, prima di calciare potrebbe comunque, insomma, muoversi freneticamente. E, però se lui mi vede arrivare, difficilmente mi calcerà, quindi sono sempre tutto parte dell'essere prevedibili. Infatti basta, quando si passa dietro, io so, essere prevedibili. Io mi ricordo che basta che tu lo inizi a accarezzare di fianco, tieni la mano mentre gli passi dietro, gli accarezzi sopra la coda e ritorni. Senti Rachele, guarda, il tempo è volato, ci sarebbero tantissime altre cose, sicuramente non mancherà occasione di scoprire nuove cose. No, vogliamo assolutamente intervistarti e poi ti verremo a trovare. Ti verremo a trovare assolutamente. Per chi voglia mettersi in contatto con te o con voi, no, dell'Oasi Equiluna, perché gli piace questo approccio, che cosa deve fare? Come vi trova? Allora, c'è il sito dell'Oasi che è www.equitazioneetica.it con due E, equitazione etica. Okay. E chi vuole scrivere a me può scrivere a rachele@equitazioneetica.it. Grazie Rachele, a presto. Grazie a voi. Grazie Rachele. E io vi ricordo, se volete continuate a scriverci, mi raccomando, chiedimi se sono felice @radio24.it con Rosetta Celentano. E Angelo Baire. Ciao a tutti.